come sempre ci lascia basiti e anche insomma arrabbiate, nel senso che continua ad esserci una speculazione fortissima sulla casa che ormai da tempo ci stiamo dicendo non è più sostenibile in questa città e in generale, però continuano a uscire questo tipo di annunci. Bisogna in qualche modo fermare questo trend, invertire la rotta e ritornare a dire che la casa deve essere dignitosa. Ecco, questo annuncio non è quello di una casa dignitosa secondo noi, ma credo insomma sia condivisa come opinione. Eppure c'è ad esempio anche una legislazione che stabilisce il minimo di metri quadri da mettere a disposizione, non basta? Evidentemente no, infatti seppur già l'ultima norma appunto di Salvini abbia abbassato il numero minimo, comunque si riesce anche ad andare sotto, quindi evidentemente chi ha questo tipo di proprietà continua a pensare che possa essere possibile metterle sul mercato. Forse c'è la consapevolezza del bisogno di casa che c'è in città. Questo sicuramente, infatti penso che probabilmente ci siano anche un sacco di proposte per quello spazio, perché il bisogno esiste ed è reale, però appunto di che tipo di casa stiamo parlando, perché sembra un gioco al ribasso, quindi alla fine casa perde del suo significato, ecco, perché deve essere uno spazio dove poter stare bene, dove poter accogliere le persone, questo sicuramente non lo è. Dopodiché quando non ci sono alternative, purtroppo immagino che le persone scelgano quello che gli viene offerto. Voi come Piazza Grande avete, oltre a lavorare proprio anche su questo tema con le persone senza dimora, state, come dire, cercando di indagare su questi fenomeni? Sì, abbiamo diciamo messo una lente su questo tema, perché comunque è molto legato al nostro lavoro di sempre, anche perché anche noi comunque cerchiamo sempre case per poter sviluppare i nostri progetti, e da tempo ormai è molto complicato per noi e per tante altre organizzazioni del terzo settore che fanno accoglienza in appartamento. Siamo anche parte di una serie insomma di reti che dell'abitare si occupano, penso al Social Forum Abitare che anche su Bologna insomma si è attivato nei mesi scorsi, e penso che come rete dobbiamo agire, perché comunque il tema è talmente grande e rilevante che può essere affrontato solo attraverso appunto una collettività, ecco, di soggetti che di questo fanno un po' la loro battaglia per varie ragioni, ma la battaglia è unica, ecco, compresa anche l'amministrazione che è parte di questo movimento insomma per restituire alla casa una dimensione dignitosa. Proprio l'amministrazione insomma sappiamo che ha messo in piedi un piano per l'abitare, però spesso anche da Palazzo da Curzio si denuncia che gli strumenti a disposizione di un ente locale sono poi limitati, serve anche un intervento governativo. Come fare? Questa è la domanda delle domande, forse. Sì, e non credo di avere io la risposta purtroppo. Diciamo che l'unica cosa di cui sono abbastanza convinta è che non esiste un'unica risposta, quindi appunto per questo bisogna essere una rete, una collettività che si muove su questo, perché ognuno può portare il proprio pezzo. Dopodiché sul livello locale penso che si possa molto lavorare insieme ai proprietari per anche far passare un messaggio che affittare le proprie case per il bene comune sia un impegno per la collettività importante, e dall'altra parte evidentemente c'è un piano nazionale che bisogna muovere in altre forme, anche facendo appunto un po' di lobby a livello nazionale, ecco. Un'ultima domanda sulla base del lavoro di molti anni che svolgete. Parlando di fragilità, quanto la casa gioca un ruolo nello scivolamento verso la fragilità, cioè la mancanza di casa ovviamente? È uno dei due diciamo tasselli che quando viene a mancare porta verso l'emarginazione. L'altro, che è quello che insomma sempre abbiamo raccontato, sono le relazioni, cioè quando vengono a mancare delle relazioni costruttive, positive, quello è l'altro elemento che porta la persona verso la strada, ecco, in ultima istanza verso l'emarginazione. Ma la casa è sicuramente l'elemento che quando manca ovviamente crea il disagio più grande.